le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'accordo sulla Grecia prevede aiuti per più di 80 miliardi, ma riforme subito, entro 48 ore il via libera alla revisione dell'IVA e delle pensioni. Positive le borse, bene i titoli di Stato. Ad Atene si apre una difficile partita politica, l'ala sinistra di Siriza parla di umiliazione, lo stesso governo di Tsipras potrebbe essere a rischio. Renzi dice nessun trionfalismo, abbiamo rischiato l'uscita della Grecia dall'euro, l'accordo è una buffonata per Salvini, per Grillo un colpo di Stato. Il caso dei due Marò, la corte indiana ha accettato l'arbitrato internazionale, intanto è stato prolungato per 6 mesi il permesso per La Torre. È nato l'ospedale Careggi di Firenze, il primo bambino concepito con la fecondazione eterologa in un istituto pubblico. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Iniziamo dunque subito dalla Grecia, dell'accordo raggiunto nella notte, un accordo che non mancherà di creare problemi nello stesso paese, ci torneremo tra un attimo, sta già creando tensioni all'interno appunto della politica greca e del partito di maggioranza, Siriza. Iniziamo però dai termini dell'accordo e dalle reazioni dei vertici europei. Accordo fatto, all'unanimità, per scongiurare l'addio all'euro della Grecia. Dopo 17 ore di negoziato, in quello che passerà alla storia come il vertice dei capi di Stato europei più lungo, è stata evitata la Grexit, neppure temporanea. L'accordo, in greco si dice sinfonia, sarà triennale, con un sostegno compreso fra 82 e 86 miliardi. Verrà costituito un fondo da 50 miliardi di privatizzazioni di asset statali con sede ad Atene e non in Lussemburgo. Le banche avranno 25 miliardi per essere ricapitalizzate, per fornire subito liquidità alla Grecia, che il 20 luglio deve rimborsare 3,5 miliardi alla BCE, ma per ottenere i fondi Atene a 3 giorni, per approvare un pesante pacchetto di riforme, fisco, pensioni, accesso al mercato, riforme giudiziarie. La sfida più dura arriva ora per Tsipras, il premier greco. Dopo aver raggiunto un accordo con l'Eurogruppo deve tornare ad Atene per ottenere l'ok del Parlamento. Netto, infatti, il suo commento a caldo al termine del vertice: abbiamo combattuto una dura battaglia, ora lo faremo in Grecia, contro gli interessi consolidati. Il numero uno della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, cerca di ricomporre la frattura aperta durante le trattative. In questo compromesso non ci sono né vincitori né sconfitti, dice. Non penso che i cittadini greci siano stati umiliati, si tratta di un accordo tipicamente europeo. Dette i tempi, il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, se tutto va bene, entro la fine della settimana può essere deciso il mandato per negoziare il sostegno del fondo salva stati europeo. Provata ma soddisfatta la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del vertice, che ha puntualizzato: ora è possibile ristabilire la fiducia tra i partner dell'Eurozona, con buona pace del Bundestag, per cui sono state create le condizioni, se tutto andrà come deve. E con decisione Merkel ha affermato: sulla Grecia è stato approvato il piano A e non c'è nessun bisogno di un piano B. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo proprio in Grecia, adesso ad Atene, con l'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold, che saluto. Buongiorno Vittorio, innanzitutto. Buongiorno a voi. La domanda per te è se questo accordo verrà approvato dai greci, perché abbiamo già visto che l'ala sinistra di Siriza non concorda con le decisioni prese a Bruxelles. No, assolutamente, il partito è spaccato, facce lunghe, facce molto cupe oggi nella sede di Siriza, la sinistra ha già minacciato di non votare, come d'altronde aveva già fatto nel piano precedente 2 giorni fa, proposto a sorpresa da Tsipras, che dopo il referendum aveva riproposto esattamente delle misure di austerità. Quindi la situazione è veramente complessa, si parla naturalmente di un possibile allargamento della maggioranza ai partiti diciamo di centro e filo europei. Questo però vorrebbe dire naturalmente rivedere un po' il panorama politico greco, che dovrebbe ricostituirsi e fare almeno un rimpasto di governo sui tali ministri. Vittorio, c'è già chi parla di elezioni anticipate? Sì, è possibile naturalmente, perché la situazione potrebbe essere veramente complicata, ma il vero problema adesso è rispettare i tempi, perché le banche sono boccheggianti, sono 2 settimane che sono chiuse, le file agli sportelli continuano e naturalmente bisogna rifornirle. Oggi c'è un'importante riunione che dovrebbe dare il via libera ancora all'ELA, che è l'unica fonte di liquidità per queste o per le istituzioni bancarie, che naturalmente dovrebbero poi riversare all'economia reale, che ricordo è in una situazione dove si calcola almeno un meno 3% di PIL solo per queste due settimane di chiusura. Grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che torneremo a collegare in diretta dopo le 13.30 per tornare a fare un punto e anche per capire qualcosa di più dal punto di vista dell'analisi di quello che è successo. Di Grecia tra l'altro torneremo a parlare in altri momenti nel corso di questa puntata alle 13.15. Restiamo sul tema però e andiamo alle reazioni italiane, che prendono in considerazione innanzitutto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio proprio al termine della riunione del Consiglio europeo, e poi ci sono altre reazioni, come vi dicevamo nei titoli, quella di Salvini, quella di Grillo. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Né trionfalismi né giudizi riduttivi su un accordo che non era scontato. Così il premier Matteo Renzi sintetizza il suo giudizio al termine del lungo vertice. Un Matteo Renzi che, come sappiamo, fino alla fine ha spinto per posizioni più morbide insieme al presidente francese Hollande, con il quale ha giocato il ruolo di mediatore in questa crisi. Renzi che si è opposto fermamente al trasferimento dei beni greci all'estero. Ma sentiamo la sua voce. Sono stato abbastanza deciso nel dire che se vuoi fare un fondo di investimento, già se devi fare un fondo con i beni che vengono dalla Grecia, tu non puoi pensare di metterlo con sede in Lussemburgo e magari commissariato, perché quello è tecnicamente per me un'umiliazione. Io trovo che sì, si sia rischiato stanotte di avvicinarsi alla Grexit. C'è stato un paio di momenti in cui, se avessi dovuto scommettere, avrei scommesso più sul fallimento dell'accordo e di conseguenza sulla possibile uscita della Grecia dall'euro. Mi pare che oggi sia fatto un passo in avanti di quelli decisi in direzione opposta. E insomma, alla fine hanno prevalso buonsenso e ragionevolezza. Ora è necessario lavorare per rinnovare l'Europa, ha detto ancora il Premier, osservando che costa meno investire oggi sulla crescita che domani sui salvataggi. Intanto dall'Italia, come dicevi anche tu Simone, arrivano reazioni contrastanti. Soddisfazione la esprime la Presidente della Camera Boldrini, che parla di occasione per rimettere in discussione i dogmi dell'Europa. È bene anche per il PD. Abbiamo scongiurato il crollo della casa europea, dice Marina Sereni. Piovono critiche invece dall'opposizione per Salvini. L'accordo è una buffonata, regaliamo altri 80 miliardi e non ridiscutiamo nulla dell'Europa e dei trattati. Durissimo Grillo, che evoca il colpo di Stato e afferma la strategia dell'Eurogruppo è quella del terrore, colpirne uno per educarne 19. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, veniamo dunque ai mercati. Deborah Rosciani, eccoci. Eccoci, allora abbiamo naturalmente questa mattina una reazione positiva da parte delle borse europee dopo l'accordo raggiunto questa mattina e comunicato, come abbiamo ripetuto più volte quest'oggi, proprio a ridosso dall'apertura della seduta sui mercati finanziari europei. Più 2% Parigi, più 1,44% Francoforte, Londra guadagna lo 0,6%, Madrid più 1,58%, Milano più 1,44%. Per la verità la reazione più incerta l'ha manifestata proprio Milano, che è partita Belino in linea con le altre piazze europee, però ha perso tutto, è andato in negativo per poi risalire e recuperare la performance degli altri listini continentali. Adesso il quadro, dicevo, è positivo, brindano particolarmente i titoli bancari, che erano stati più sotto pressione negli ultimi giorni, ma in questo momento sta andando bene il settore petrolifero, bene anche il lusso, spinto dal report di una grande casa d'affari. Reazione positiva, dicevamo, ma senza fuochi d'artificio, anche perché già venerdì le borse avevano brindato nella convinzione che un accordo potesse essere raggiunto proprio già in quella giornata. Poi, come sapete, è stato tutto sconfessato nel weekend e questa mattina la giornata invece è partita sotto i migliori auspici, ma gli operatori forse non ci credono fino in fondo e pensano che qualche incognita ancora potrebbe venire alla luce. L'euro è sceso molto sul dollaro, siamo a 1,10,76 e poi abbiamo avuto, come dicevamo anche prima, le aste dei titoli di Stato italiani che stamattina sono state appunto realizzate con un collocamento per molte scadenze, con rendimenti che sono di nuovo in discesa. Per esempio, per il titolo a 7 anni il rendimento è sceso all'1,60%, il tesoro ha piazzato quasi 2 miliardi, per il titolo a 15 anni è stato piazzato 1,5 miliardi, il rendimento è sceso al 2,63%, collocati anche 2,5 miliardi di BTP a 3 anni, in questo caso invece il rendimento è leggermente risalito allo 0,48%. 1%, per cui al momento la situazione Simone è questa, ci sembra comunque una condizione di sostanziale stabilità. Grazie a Deborah Rosciani, torneremo sui mercati come sempre nello spazio dedicato alle 13.30. Intanto cambiamo argomento, anche se sulla Grecia, come vi dicevo, torneremo più avanti. La vicenda dei due Marò, è arrivata una decisione importante dalla Corte indiana questa mattina. Dopo più di 3 anni di impasse e tensioni, il caso Marò è a un punto di svolta. La Corte Suprema indiana ha accettato il procedimento di arbitrato internazionale richiesto dall'Italia per risolvere la controversia dei due fucilieri di Marina, La Torre e Girone, accusati dell'omicidio di 2 pescatori indiani nel febbraio del 2012. A decidere quindi non sarà nessun organo giudiziario, ma soggetti privati nominati dalle parti, in questo caso scelti tra gli arbitri della Corte Permanente d'Arbitrato dell'AIA. Dopo la richiesta italiana presentata a fine giugno, l'esito sembrava quasi scontato negli ultimi giorni. L'India è firmataria della Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, che in caso di dispute stabilisce che se una parte in vertenza cerca un arbitrato, l'altra deve accordare. Viene da chiedersi perché sia stata intrapresa questa strada solo adesso. La Corte Suprema indiana ha inoltre prolungato di 6 mesi il permesso di restare in Italia per Massimiliano La Torre, che potrà continuare le terapie riabilitative dopo l'ictus subito il 31 agosto scorso. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E viene battuta in questi minuti una notizia dalle agenzie, una nota della Farnesina, ossia del nostro Ministero degli Esteri, che dice che l'Italia si accinge ad attivare tutte le misure necessarie per consentire il rientro in Italia anche del fuciliere di Marina Salvatore Girone, dopo appunto l'estensione del permesso per Massimiliano La Torre per motivi di salute. Vedremo che cosa succederà da questo lato. Intanto, dal lato invece delle vicende italiane, è venuto alla luce a Firenze il primo bambino concepito in un centro pubblico. Si chiama Luca, il primo bambino italiano venuto alla luce grazie alla fecondazione eterologa in una struttura pubblica. È nato sabato mattina all'ospedale Careggi di Firenze. Dopo anni difficili, pieni di sofferenze ed interventi chirurgici, ora si dicono finalmente felici i genitori del piccolo. La coppia, Simone, un autotrasportatore di 49 anni, e sua moglie Chiara, un'operaia di 30 anni, nonostante le difficoltà non si sono mai arresi. Ad aprire la strada e adesso a festeggiare con loro la Regione Toscana, che un anno fa con una delibera e un progetto articolato ha dato il via libera all'eterologa nelle strutture pubbliche, ispirandosi al principio democratico che aspirare a diventare genitori non può essere un diritto a pagamento. E dopo le polemiche che non fermarono il governatore Enrico Rossi, ora è lui stesso a fare gli auguri al bebè e ai suoi genitori e a parlare di orgoglio della sanità toscana. Al costo di 100 euro per il ticket e di 400 euro per vari altri esami, ora Simone e Chiara, sposati dal 2006, sono finalmente diventati genitori. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La procura rumena ha incriminato il primo ministro Victor Ponta per evasione fiscale, riciclaggio e per aver detto il falso quando lavorava come avvocato nel 2007 e nel 2008. In quel periodo Ponta, che respinge le accuse, era membro del Parlamento. I suoi asset personali, i suoi beni personali, sono stati temporaneamente congelati. Abbiamo parlato e ne parleremo ancora ampiamente delle trattative sulla Grecia, di come si sono concluse, ma sono in corso altre trattative importanti. Sono quelle sul nucleare iraniano e forse anche queste potrebbero arrivare a conclusione nella giornata di oggi. Il punto con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa dobbiamo attenderci? Ma io mi auguro, credo che siamo in molti a farlo, che oggi sia la giornata decisiva, tra oggi o domani. È stato annunciato per questa sera alle 19.30 un messaggio alla nazione del presidente iraniano Hassan Rouhani. Dovrebbe forse essere la volta buona, i segnali ci sono tutti, si dice continuamente, minuto dopo minuto, che siamo a un passo dall'annuncio dell'intesa. Certamente se non venisse sarebbe una grande delusione, ma se fosse realizzata possiamo dire che per la prima volta la diplomazia in Medio Oriente la meglio sulle armi, un fatto che in questa regione devastata dalle guerre e dal terrorismo non accade mai. Brevemente, Alberto, che cosa rappresenterebbe questo accordo con l'Iran? A parte il fatto che è finalizzato ovviamente a fermare le capacità iraniane di produrre un'atomica, e il dubbio che possa fermare in realtà la proliferazione nucleare e gli armamenti rimane in ogni caso, e costituisce dal punto di vista geopolitico il ritorno dell'Iran a pieno titolo sulla scena internazionale, perché se rispetterà questo accordo Teheran ha grande opportunità. Stiamo perdendo Alberto Negri, grazie, lo ringraziamo, ringraziamo Alberto Negri, comunque il concetto espresso mi sembrava chiaro. Veniamo in chiusura di questa prima parte allo sport, iniziando da calciomercato. Carlo Genta, buongiorno. Ciao, le ultime. Simone. Magari Alberto Negri è andato al cellulare di Pardo, che non funziona mai, che funziona raramente. Ma le ultime sono che in realtà sono di ieri, perché oggi è il giorno della celebrazione di El Shaarawy al Monaco. Il Milan adesso è in prestito, poi il diritto di riscatto fissato sui 16 milioni, che sono gran bei soldi, anche se in questo mercato girano quotazioni molto elevate. Immobile è andato al Siviglia, è passato al Borussia Dortmund, al Siviglia, dunque altra esperienza all'estero per lui dopo quella fallimentare in Germania. Poi c'è la notizia del giorno, è che Sabatini, direttore sportivo della Roma, è partito per l'Inghilterra. Supermarket Manchester City, che ha appena rilevato Sterling per 68 milioni di euro. Sabatini è là per cercare di prendere Dzeko, che è dichiaratamente il sogno della Roma. A quanto si dice la Roma avrebbe offerto 10 milioni, il City ne chiederebbe 20, quindi le distanze al momento sono elevate, così come la richiesta del Milan alla Roma per Romagnoli, offerti 20 milioni, la Roma ne chiederebbe 30, ha molti giocatori in esubero, da Gervinho a Dumbia a Ljajic, che sono sul piede di partenza. Non è detto che Sabatini magari dopo Manchester possa fare un salto a Londra, questo non lo sappiamo, ma possiamo supporlo, perché altro obiettivo della Roma è Salah, che Mourinho non ha convocato per il Chelsea, quindi è chiaramente sul mercato, anche se sappiamo già da tempo che non tornerà alla Fiorentina. E grazie a Carlo, grazie. Genta, per questo aggiornamento sul calciomercato. Abbiamo qualcosa da dire anche su Wimbledon e sul grande match di ieri tra Djokovic e Federer, ma lo faremo più avanti. Intanto ci fermiamo per il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'accordo sulla Grecia, nella notte del Consiglio europeo, aiuti per più di 80 miliardi, ma riforme subito, entro 48 ore il via libera alla revisione IVA e alle pensioni. Ad Atene si apre tra l'altro una difficile partita politica, l'ala sinistra di Siriza parla di umiliazione. Si discute anche in Italia, Renzi dice nessun trionfalismo, abbiamo rischiato l'uscita della Grecia dall'euro, l'accordo è una buffonata, secondo Salvini per Grillo è un colpo di Stato. Il caso dei due Marò, la Corte indiana ha accettato l'arbitrato internazionale, intanto è stato prolungato per 6 mesi il permesso per la Torre. È nato all'ospedale Careggio di Firenze il primo bambino concepito con la fecondazione eterologa in un istituto pubblico. Buongiorno a Teodoro Andreatis Singellakis, corrispondente della televisione greca Alfa dall'Italia. Buongiorno Teodoro e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Dall'idea che ti sei fatto e dall'idea che hai, come verrà accolto in Grecia questo accordo? Perché i termini sono oggettivamente molto duri. Sono duri e ovviamente non è la fine dell'austerità. Secondo me socialmente la base della società greca è ormai troppo provata dall'austerità per accettare le stesse ricette dall'Europa. Molto probabilmente si andrà a elezioni anticipate e potrebbe essere anche in concomitanza con quelle della Spagna. E a quel punto, se anche in Spagna dovessero avere un risultato rilevante i Podemos, come sembra, vorrei vedere se l'atteggiamento specialmente della Germania rimarrà uguale o se ci sarà comunque, come dire, una maggiore apertura verso la possibilità che possa esistere anche un'Europa diversa. Senti, ma non sarebbe stato meglio a questo punto chiudere l'accordo all'atto dell'arrivo di Siriza al governo e forse si sarebbe risparmiata una cura così dura? Ma questo va rivolto a tutte e due gli interlocutori, diciamo così. Tsipras aveva dai suoi elettori e dalla maggioranza della società greca il carta bianca per poter chiedere una revisione di questi programmi, per poter avere maggiore sviluppo, per poter avere meno austerità, per poter riavere i contratti collettivi di lavoro, per dirne una, e non i licenziamenti di massa. Ci ha provato in questi mesi, ha spesso trovato davanti a sé un muro, vedremo se nei prossimi mesi sarà così. Queste leggi ora devono essere approvate, bisognerà vedere quale sarà l'atteggiamento del Parlamento greco e quale, anche se dovessero essere approvate, quale sarà l'atteggiamento della società, che si aspetta una crescita e non ulteriori tagli. Quindi questa è complessivamente la tua impressione. La tua impressione è che in Parlamento possa passare senza problemi con una sorta di voto di una larga coalizione? Sì, potrebbe essere, poi si vedrà ovviamente se si deve creare un governo tecnico, se si va a elezioni, quali saranno, non credo ad agosto, però già a settembre potrebbe essere possibile, quali saranno gli sviluppi, perché Tsipras continua a essere di gran lunga il leader più popolare nel paese, non credo che voglia lasciarsi logorare per fare un piacere a Schäuble. Ecco. Quindi potrebbe essere una scelta direttamente di Tsipras per ricevere un nuovo mandato popolare in sostanza? Sì, potrebbe essere, già il ministro del lavoro ha fatto riferimento oggi alla concreta possibilità di elezioni, quindi insomma non la vedo una cosa così campata in aria. Poi in questi mesi abbiamo visto che l'avere un mandato delle elezioni non vuol dire convincere Bruxelles, vedremo se si tratterà di convincere i politici o i tecnocrati di Bruxelles fra pochi mesi, se ci dovessero essere le elezioni, ripeto, anche con il responso di Spagna e Portogallo, che sembra essere al momento nelle previsioni contrario all'austerità. Tu non imputi a Tsipras e al governo di Tsipras e allo stesso Varoufakis alcun errore, nel senso che in questa trattativa, come dire, al di là del muro tedesco e in parte di Bruxelles che si sono trovati di fronte, non hanno sbagliato qualcosa? Potrebbero aver pensato che era più facile di quanto non fosse. Nel preaccordo di febbraio loro stessi hanno detto che forse dovevano chiedere un anticipo in liquidità, diciamo così. Potrebbero non aver capito che Italia e Francia li avrebbero sostenuti, ma fino a un certo punto, poi la Francia è seguita dall'Italia, ha cambiato atteggiamento solo negli ultimi giorni. Sicuramente ci sono stati degli errori di ingenuità, però il problema era cambiare o no il paradigma, rompere il circolo vizioso per cui si prendono soldi per pagare vecchi prestiti e prendere nuovi soldi. Questo è quello che chiedeva la Grecia, al momento l'Europa non l'ha accettato, non prendiamo, insomma, è chiaro, è inutile prendersi in giro, vedremo fra pochi mesi che cosa succederà, perché io ripeto, penso però che è anche normale, Teodoro, ti chiedo, però è anche normale che nel momento nel quale tu concedi liquidità per 80 miliardi di euro chieda anche delle garanzie. Beh, oddio, normale fare il fondo non è tanto normale, perché non l'hanno fatto per nessun altro paese. Secondo me è una pressione su questo governo per cercare di avere una maggioranza più gradita a Bruxelles e alla Germania. Non credo che sarà facile, perché non c'è nessun partito in Grecia che possa ambire ad avere la maggioranza, quindi alla lunga potrebbe anche rivelarsi un autogol che metterà in ulteriori difficoltà non solo la Grecia ma proprio l'Europa, perché si apre proprio una discussione su che cos'è il mandato democratico e su come si scontra con le regole europee. Grazie a Teodoro Andreatis Singellakis, corrispondente all'Italia della televisione greca Alfa, per essere stato con noi e per averci dato la sua opinione. Saluto Angela Del Vecchio, che è ordinario di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Per parlare della decisione della Corte indiana, della quale già vi dicevamo nei titoli e sulla quale vi abbiamo fatto sentire un servizio, che riguarda i due Marò, i due fucilieri della Marina accusati di aver ucciso due pescatori nelle acque indiane. Bene, oggi la procura indiana ha accettato il procedimento di arbitrato internazionale presentato dall'Italia per questo caso. Ci spiega innanzitutto, e spiega ai nostri ascoltatori, professoressa Del Vecchio, che cosa significa l'arbitrato internazionale, cosa significa questo procedimento? Questo procedimento è un arbitrato molto particolare che è stato inserito nella Convenzione sul diritto del mare delle Nazioni Unite. Non è il classico arbitrato che ha bisogno del consenso di entrambe le parti. Questo è un arbitrato che scatta su richiesta di una delle parti della controversia. Quindi l'Italia ha chiesto un arbitrato in base a questa norma e l'India non può sottrarsi. Non può dire non consento all'arbitrato. E ci sono anche dei termini molto precisi perché il tribunale arbitrale venga composto. E come funziona quindi il meccanismo? Viene costituito un tribunale arbitrale, immagino, con una composizione internazionale? Dunque, la composizione è fatta da 5 membri. Di questi 5 membri, 2 arbitri spettano a ciascuna delle parti. Quindi uno già l'Italia la deve avere indicato nella sua richiesta di arbitrato. Poi si danno 30 giorni all'altra parte, quindi nel caso di specie all'India, per nominare il suo arbitro. Se non lo fa entro i 30 giorni, sarà il presidente del Tribunale Internazionale del Mare, che è a sede ad Amburgo, è un tribunale internazionale, quindi è un organo di assoluta indipendenza e imparzialità, che nominerà lui l'arbitro per l'India. E quindi ci saranno i due arbitri. E gli altri tre membri, nominati dal Tribunale Internazionale del Mare? No. No, devono essere scelti di comune accordo tra le due parti. Solo se le parti non si mettono d'accordo rinterviene un'altra volta il presidente del Tribunale Internazionale del Mare per dire lui quali sono gli altri tre arbitri. Questa procedura di arbitrato internazionale che cosa comporterà? Cioè questo tribunale che cosa è chiamato a decidere? Non è chiamato a decidere, mi sembra di aver capito, se i due fucilieri di Marina hanno ucciso i due pescatori oppure no. È chiamato a decidere altro Ha ragione, chiamata a decidere chi ha competenza nel caso di specie, perché noi in questo momento abbiamo quello che viene detto un conflitto di competenze, vale a dire l'Italia dice ho competenza a giudicare io i due marò perché sono miei ufficiali, perché erano su una nave italiana in acque internazionali e io sono lo Stato competente. L'India al contrario dice no, sono io lo Stato competente perché sono stati uccisi due miei cittadini e comunque sia avvenuto il fatto, io in base alle mie norme interne sono competente. Quindi ci sono due tipi di norme interne che si contrastano tra di loro. Il Tribunale arbitrale deve decidere chi è competente, l'Italia o l'India. L'ultima domanda che le voglio fare è se si ha un'idea dei tempi, al di là di questi 30 giorni entro i quali l'India dovrà nominare il suo componente della, del Tribunale arbitrale, della Corte arbitrale, ci dice più o meno che tempi hanno di solito le soluzioni di queste cose? Dunque, per la composizione del Tribunale arbitrale, pensandolo tutto in negativo, che l'India non fa e non nomina poi di comune accordo gli altri, a settembre, con la procedura che le dicevo prima, avremo il tribunale lo stesso composto, sì. Quindi entro settembre il tribunale sì. Ce l'abbiamo. Poi naturalmente questi tribunali arbitrali hanno i loro tempi per decidere, ma la cosa importante è che noi Italia, nelle more della costituzione di questo tribunale, quindi già da domani, possiamo richiedere quello che tecnicamente chiamiamo misure cautelari, cioè nel nostro caso possiamo richiedere il rilascio dei due marò, sia di quello che abbiamo in Italia sia di quello che è rimasto in India, perché è una misura cautelare, altrimenti la questione sarebbe se le parti della controversia sono due, Italia e India, e una detiene uno dei due imputati e la bilancia della giustizia pende dalla parte dell'India. È chiarissimo, e così spieghiamo anche, e ci ha spiegato benissimo questa nota che è arrivata questa mattina dalla Farnesina, per la quale si dice l'Italia si accinge ora ad attivare le misure necessarie per consentire il rientro in Italia anche del fuciliere di Marina Salvatore Girone, evidentemente sotto questa normativa che lei ci ha spiegato così bene. Grazie ad Angela Del Vecchio, docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma. Vi avevamo promesso qualcosa su Wimbledon, non era inevitabile oggi dopo quella gran finalona di ieri. Sentiamo. Cominciano ad essere spelacchiate come l'erba del campo centrale le teste di quegli appassionati che se li ricordano straordinari interpreti dell'arte del servizio e della volée sotto gli occhi della famiglia reale. No, non stiamo parlando di Novak Djokovic e Roger Federer. Alla loro seconda finale consecutiva sul prato più prestigioso al mondo, con il doppio successo dell'asso serbo, ma di altri due fenomeni che hanno condotto Nole e Roger fino all'ultimo atto, memori delle loro sfide che quell'erba la infiammarono alla fine degli anni 90. Per tre finali consecutive, infatti, dal 1988 al 1990, Boris Becker, oggi tecnico di Djokovic, e Stefan Edberg, attuale allenatore di Federer, incrociarono le racchette per contendersi il trofeo dell'All England. 2-1 il bilancio a favore dello svedese sul campo, ma da coach Boris è in corsia di sorpasso, anche se col suo alter ego. Djokovic, infatti, gli ha regalato le vittorie negli ultimi due anni, battendo il sublime allievo dell'eterno rivale. Destini che si incrociano sotto rete, per di più a 30 anni da quel 1985 in cui il 17enne Becker divenne il più giovane vincitore di Wimbledon. la vittoria per Boris Becker. Grandissimo, favoloso questo ragazzo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per i mercati e poi nella seconda parte torneremo a parlare di Grecia e poi ci collegheremo con il sindaco, o meglio l'assessore di uno dei comuni colpiti dalla tromba d'aria sulla riviera del Brenta, perché come già vi abbiamo detto non abbiamo intenzione di abbandonare questa vicenda e quella popolazione. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Aiuti per più di 80 miliardi per la Grecia, ma riforme subito, entro 48 ore il via libera a revisione IVA e pensioni, situazione politica tesa nella Grecia stessa, lo stesso governo di Tsipras potrebbe essere a rischio. Le reazioni italiane, Renzi dice nessun trionfalismo, abbiamo rischiato l'uscita della Grecia dall'euro, l'accordo è una buffonata, secondo Salvini per Grillo un colpo di Stato. Il caso dei due Marò, la Corte indiana ha accettato l'arbitrato internazionale, come vi abbiamo raccontato poco fa, questo potrebbe aprire al ritorno di Salvatore Girone in Italia. La borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E ritorniamo alla Grecia per riassumere brevemente i termini dell'accordo. Gli aiuti saranno tra gli 82 e gli 86 miliardi, ma c'è una richiesta di riforme subito che dovranno essere approvate in brevissimo tempo. Subito il via libera alla revisione dell'IVA e alle pensioni e poi una riforma del codice civile sostanzialmente entro una settimana. Della reazione dei mercati vi abbiamo parlato un attimo fa, torniamo a collegarci con Atene con l'inviato del Sole 24 Ore Vittorio Darold. Vittorio, di nuovo buongiorno. La domanda che ti vogliamo rivolgere è quanto questo piano che è molto duro, quanto di questo piano che è molto duro i greci si sarebbero potuti risparmiare se l'accordo fosse arrivato un po' prima, magari all'atto dell'arrivo di Syriza al governo. Sì, assolutamente, ci sono stati 6 mesi persi in negoziati che hanno portato a un piano molto peggiore, a un piano molto più complesso, più difficile, che porterà anche una maggiore difficoltà politica, una instabilità politica nel paese, perché ci vorrà una nuova maggioranza e probabilmente un nuovo primo ministro, probabilmente alcuni parlano di un primo ministro tecnico, ma questo quindi ha portato poi a un peso eccessivo sull'economia interna, perché ci sono stati con il controllo dei capitali delle gravi difficoltà per gli esportatori e per gli importatori, quindi tutto questo ha creato veramente un grave problema all'economia reale in un momento che è sempre un momento molto critico per il paese, perché è quello della stagione turistica, quindi il momento in cui arrivano le rimesse appunto dei turisti. È stata veramente una battaglia che alla fine ha portato solo rovine, nel senso che non si è ottenuto quello che Tsipras aveva sempre chiesto, cioè la riduzione del debito. Questo è ancora fuori dal piano, dal perimetro del terzo salvataggio della Grecia. Anche se l'Eurogruppo oggi parla di un possibile riscadenziamento, però non ci sono ancora dettagli su tutto questo. Io ti ringrazio, grazie ancora a Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Saluto Matteo Bellomo, assessore al comune di Dolo, siamo in provincia di Venezia, delegato dal sindaco come portavoce per l'emergenza e per il tornado che ha colpito la zona e la riviera del Brenta nei giorni scorsi, che non vogliamo abbandonare. Bellomo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci dà un quadro della situazione da voi? Ma il quadro della situazione è drammatico. Noi abbiamo solo il comune di Dolo, che è quello più colpito, ha oltre 300 edifici colpiti, 132 dei quali dichiarati inagibili e una novantina circa che ci viene detto che sono da abbattere. Quindi la situazione è molto molto pesante. Quanti ha detto da abbattere? Una novantina circa. Una novantina da abbattere, sì. Completamente. Ci sono anche aziende tra questi? Ci sono anche aziende, ci sono alcune aziende anche storiche, per esempio la Scaldaferro, che è nota per i torroni di Natale, ci sono vivai, attività commerciali, una ventina di elementi produttivi, tra commerciali e produttivi coinvolti. Avete fatto un quadro dal punto di vista economico di quanto può costare la ricostruzione di tutto questo, la risistemazione e anche l'abbattimento nella fattispecie, perché sì, purtroppo costa pure quello. Beh, considerato che sono coinvolte anche 15 ville venete solo sul territorio di Dolo, di cui una, Villa Fini, che è quella che sta diventando tristemente famosa come diciamo manifesto di questa di questo tornado. La stima che stiamo facendo insieme alla Protezione Civile Nazionale parla di una cifra enorme, circa 150 milioni di euro. 150 milioni di euro, compresi in questi 150 milioni quindi anche i beni artistici, ossia le ville venete? Esatto, compresi i beni artistici, il patrimonio pubblico e il patrimonio privato. 150 milioni di euro, vorrei capire se avete già idea di stanziamenti in arrivo, magari dalla regione? La regione ha dichiarato immediatamente lo stato di calamità e ha stanziato subito 3 milioni di euro e altri 3 li reperirà con delle variazioni di bilancio. Stiamo aspettando la dichiarazione da parte del governo, che ci ha assicurato il presidente Renzi, che ha telefonato al sindaco nei giorni scorsi, che arriverà subito inizio settimana. La ringrazio, grazie a grazie. Matteo Bellomo, assessore del comune di Dolo, provincia di Venezia, delegato dal sindaco come portavoce per l'emergenza. Non abbandoneremo la zona, non abbandoneremo la vicenda e tutto quello che sta succedendo là. Avete sentito il racconto, avete sentito anche la dimensione del danno. Traffico.